Iburu, avevamo radio potente. Ah, ma non più di tanto, non ti credo, erano tutti baracchini, sono proprio filmati. Erano tutti baracchini, ma sai, in FM rende di più, poi con quelle antenne che ci avevano, erano tutte antenne lunghe su questi taxi, quindi aveva anche un buon rendimento sotto quell'aspetto. Sicuramente. No, non lo so come erano messe. Beh, sicuramente anche la centrale operativa era bella pomposa, cioè magari la più che usciva più di tutti. Magari ce l'avevano in lineare per farci sentire, la città è grande. Ma adesso ho visto, sicuramente le hanno dato della radio VHS, VHS nelle bande previste, oppure sono passati anche loro col sistema cellulare, come anche a Sassi, ti ricordi che erano radio taxi, erano sui 43 500, giù di lì, su quelle frequenze davano l'autorizzazione a scopi commerciali, eccetera eccetera. C'era il radio taxi, una cassata, c'erano quelle antenne tipo quelle CB. Adesso sono tutti trasferiti con il sistema cellulare, che è più economico, e poi hanno anche la posizione, capite? Ci sono delle applicazioni che c'hanno, premono e parlano immediatamente con chi vogliono, c'hanno una copertura da paura. Me lo ricordo, ce l'hanno quelle delle bombole, adesso ce l'hanno quella frequenza. Se tu la guardi è quasi uguale a quella nostra CB, solo che mi pare che gli manca qualche pezzo, forse, la vera, quella per i 43 MHz. Oramai non vedo neanche più gli apparecchi, quindi hanno abbandonato tutto. Perché non faceva, capito? Dovevi pagare per ogni singolo apparecchio, insomma di lì era un po' differente la cosa, non era gratuito. E quindi col telefono è più pratico, ti rintracciano dappertutto, e poi è più veloce la comunicazione, di stare lì a chiamare. Anche perché il telefono te lo porti appresso, capito? Quindi anche se sei fuori dalla macchina ti pizzicano subito. E poi sanno anche dove sei, tra l'altro, quindi c'è tutta la mappa, tutto in ordine. Io mi ricordo che così era, cioè, l'avevo vista io un po' di tempo fa, adesso non so se ci sono in vendita, ma penso di sì. Ce n'era una che ci assomigliava alla Mantova Turbo, però era per i 43 MHz, era diversa. Sì, è molto più bassa. È molto più bassa e poi sono frequenze un po' strane, perché dovrebbe essere il multiplo. Adesso se non ricordo male dell'88, quindi qualche disturbo sulla frequenza non è buono, c'è qualche disturbo dalla gamma broadcasting dell'FM, da qualche radio fatto. Speriamo che le tolgano, così almeno c'è un po' più, meno di stupizia sull'etere. Buonasera a tutti. Buonasera, anche a lei. Sanno che non entri. Avete parlato in due, è passato Antonio e stasera avevamo mia zia in visita per questioni di tutto scartofi, a questioni di eredità, di roba di Taranto, di parenti, di una parente morta, tutto in burocratese, poi in molti termini commerciali eccetera, e quindi ci ha messo in croce, diciamo, dai, è andata via poco fa, allora ho ascoltato 3 minuti e adesso ho breccato, dai. E beh, come va? Poi diceva quello, si tira a campare. Bene, bene, bene. Devo fare un po' di bianco, devo fare. ce la risentiamo dopo, vai. K, buona serata allora. Alla prossima. Avanti, va. Ehi, K, anto, dai. Ehi, anch'io adesso un po' metto mano alla TV. Vediamo se c'è qualcosa di interessante. C'è un film di Rambo che non ho mai visto, quello della Thailandia, l'ultimo John Rambo, mi pare si chiami. Oppure Il pianista sull'oceano, che deve essere di quelli pallosi, però 4 stelle, dai, ben quotato come film. E, vabbè, sto usando sempre il President, sono riuscito a fare uscire a pigio il beep, che prima era troppo basso. Aspetta, dacci un paio di colpi di quel beep. Modello digitale. E questi sono quelli della mia radio. Sono quelli degli, aspetta che me lo ascolto, che non mi fa 1, 2, 3, prova. Che brutto, 3 toni mi sembra, no? Ti devi, sì, sono 3 toni. Niente, ti volevo far ascoltare il mio, vediamo un po' se. Però qui sì, perché lì vediamo un po', ma non trovo questo tocco nel piatto, perché vediamo un po', ma c'è la silenziata, sì, la silenziata decisamente. Ma tanto per prova poi lo tolgo. Gianfra, la modulazione, dimmi come la senti rispetto sempre col President, se ha cambiato qualcosa. Sto parlando sempre di 3/4 al mic, abbastanza vicino, dai. Sembra quella di Marco Fontor, guarda. Non ha peggiorato, no? Più bassa, più forte. Per sicurezza lo chiedo, là, non vorrei aver toccato parametri che non mi competono. Quindi vicino al mic, oppure 10 cm, ma non fa testo perché 4 dita, non sono microfoni amplificati, dai. 10 da parte mia, buonasera. Oh, ciao profeta, bene, come va? Un'altra maledetta giornata è finita, anzi ancora non è finita. 10, va bene, poi c'è l'orecchio allenato per l'audio video, dovrei dire, non solo per l'audio. Insomma, nel tuo. Il finale è quello di chiusura, mentre quello d'inizio è identico al tuo, quasi. Era questo. C'è una bussata avanti, buonasera. Ciao Gianfranco, ciao Marco, vabbè, vi siete parlati sopra, sono entrato così, tipo calcio volante da Chuck Norris, buonasera a tutti. niente, comunque, avanti Gianfranco. Sì, capita. L'hai sentito Marco, com'è? Sì, sì, gli ho dato la mia pagellina, no, va benissimo. Ottimo e abbondante, è una delle migliori modulazioni. Non lo dico da adesso, mi piace, proprio sembra quasi radiofonica, cioè radiofonica nel senso FM, radiofonica a quei livelli. E io non avevo mai provato di questi apparecchi qua, di questa marca, che poi è mezzo francese, ormai Presidente non è manco più americano, cioè Presidente Stati Uniti e Presidente Europa, mi pare, tutto in francese il sito in Parigi. Anche le dichiarazioni di utilizzo sono di conformità sono in francese per l'Europa. Bene, che dire, non posso chiedere di più, dai. Riprendete voi che sto attaccando un occhinotto. Eia, qua mi sale lentamente, ma va bene. Cioè, tutta la sera, mamma mia, tutto scartuffio e poi tutta roba inutile che tanto non ne capiva lei e non ne capivamo noi. Mi sono bruciato la serata, va bene, non fa niente. Urbia, questo bip è stravagante, Marco lì. Quello dell'apparecchio, adesso lo leggo infatti, perché io non me lo sento, lo senti tu, gli altri, non andare, può essere seccante. sembra una roba molto da pattuglia, mi. Ecco qua, sparito, desaparecido. Confermo, si è... l'hai tolto, dai. No, comunque va bene, oggi sto un appunto, niente di che. Ehi, sì, poi già lo sai che i BIP non è che li amo. Anche sul 3009 l'hanno fatto fisso, potevano fare un interruttore frontale per toglierlo, anche per chi ascolta può essere seccante la notte, tipo roba del genere. Ho già, senti qualche alternata sotto, qualsiasi disturbo, e ti lascio la portante muta. Negativo, proprio perfetto, pulito, zero ronzì o segnali molesti, va benissimo. Ah, ok, mi vengono le paranoie, mi vengono ogni tanto. No, perché un giorno, stavo usando il 3009, mi aveva ascoltato qualcuno, ma non mi ricordo se era Gianni o Pirumo, chi era, e mi sentiva come una lieve alternata sotto, però con l'altro apparecchio. A meno che non dipendesse da chi riceveva, boh, va bene. Quindi non pervenuta, dai. Eia, vabbè, adesso ti contraccambio la richiesta, io... alternata sotto, ciò per caso, ti lascio un po' di bianco. No, qua non sento nulla. Io l'unica cosa che sento qua è la ventola mia, però, la ventola mia, che se non ci fosse sarebbe meglio. E infatti poi tolgo l'alimentatore e metto quello senza ventola, che alla fine stancami, ti distrae un po' dalle modulazioni. Io su di te ho alzato il volume e non sento alcun rumore, Gianni. Alcun rumore, dai. Bene meda. Sì, la radiolina fa che è un bijou. Vediamo se è tornato Gianfranco. C'era una volta il profeta. Mia Spalviero, buonasera Claudio, ben sentito. Se da tanto. E allora, che passa? Che passa, tutto passato, cosa c'è da passare? Ciao Marco, buonasera. No, mio, già cenato e sono entrato qua in stanza, che posso aprirmi la finestra per notare il poggio, fumo una sigaretta e poi che ore sono? Verso le 10 vado a ritirare mia figlia dal QRL e a chiudere il bar. Va bene, vediamo un po' se è rientrato Gianfranco. Ciao Gianni e ciao Marco. Gianfranco, ci sei? Sì, ci sono. Ha fatto in fretta a cenare. Marco, guarda se ti piace questo. Mi dice, però non so dove va a finire. Vediamo se è qua. Sembra tutta roba di serie TV, dai. Ehi, ciao Claudio, ben entrato, dai. E alla tua stazione la modulazione è abbastanza limpida, ti piace? È normale il mic, è sempre, non è di quelli amplificati, è quello di serie dell'apparato. Vai Claudio. Io sto usando un altro tipo di radio, non sto usando il K, però la modulazione già va bene. Già va bene, non c'è problema. Allora, Rubrofè, cosa mi racconti? Tutto a posto? Dai. ti lascio interpretare la risata, dai, che può essere sia uno che l'altro. Comunque, dai, siamo qua. Fin qui tutto bene, come recitava la nota frase di un film. Sento la timbrica diversa, sicuramente, come hai detto, stai usando un'altra radio, però va benissimo come sempre. Sì, beh, la timbrica non è che vudiana, ma comunque si difende bene anche questa radio. Si difende bene, ok, questo è il mitico valvolare, con un semplice MB più 5, però io già lo faccio andare. L'importante è la modulazione, sia buona, sia chiara, non sia barattolosa, non sia cupa, vabbè, già abbiamo fatto già le prove, va bene così. Tu mi sono a zero e tutto ok, il microfono è a 2, a 3. Per questo c'è il Mickey Gain che spinge, capito? Farò un processore, se lo metto ai livelli dell'altro MB più 5 è in cuffia, un bel forte la modulazione. Allora abbiamo corretta così, dai, facendo prof. Cazzo Gianfra, quello non è un bip, chi so mai è un trodio. Ma guarda che Marco, che ti faccio i quettoni, semplicemente. Infatti hai detto bene Marco, ma io il bip voglio sentire bip cazzo, ci ha fatto cazzo male uno quando ci sta sforzando a fare una gaggata, no già. Non ho sentito, a dirti la verità. Ma non hai sentito il bip o la gaggata? Oh, yeah. No, io poco fa ho detto quello di Marco. Mi ha chiesto un parere qua, il bip di Marco. Il bip di Marco è un bip, si sente, fa bip. Cazzo, come Gianfranco sembra quando si sta sforzando andare in bagno. Ma Claudio, tu non l'hai sentito il bip del presidente? No, cioè il volume basso, ho sollevato adesso il volume perché mia moglie sta facendo la cultura con Maria De Filippi e quindi io sto scimmendando prima che quando una volta in vera la televisione, ragazzi, diceva qualcosa. Mi c'è anche Antonio, mi Claudio, questo è il bip, vai da dillo, mi. Porca miseria, è frettone, brevi, è diverso dagli altri, dai, questo è mandatelare utile quando parli per far capire che hai definitivamente ammolato la portante, dai, il 27 non serve. Allora, 27 basta fare come fa Antonio, quando smette di fare la portante, fa di... Io ce l'ho sentito l'altro giorno, mi stavo pisciando la risata, quando era? Venerdì, può essere. Stiamo pisciando davvero, mi. Quando gli volevamo vendere lo spray con Luca. E io ho sentito, sì, la parola spray, poi non mi ricordo il discorso, perché lo sai, io vado, vengo da una stanza all'altra, no? Non seguo il discorso, magari lascio acceso, però so sempre, poi mamma che cazzo che mi chiama per ogni cosa. Cioè, il momento che mi siedo, l'unico momento che mi siedo, Marco, mamma mia, che incubo. Antonio, mitico Antonio, che... Non ce n'è, vedi l'altro. Schiappa. Ehia, dimmi, la mamma rubo un ente di gaffetti, mi sono appena fatto la doccia. Ah, perciò che te ne puoi lo tappa cornicione, già, è piega, vedo cos'è. Cornicione? Sì, lo tappa cornicione, no già, video che cos'è. Ciao Antonio, buonasera. E allora, questa antenna come sistemata l'abbiamo? Rugrido, via. Bene, dai, ti sento meglio, dai, no, tanto già siamo abbastanza vicini. Papà, adesso, chi è più distante, Claudio o Marco? Pare che arrivi più forte a casa tua, gra. Io, con la stessa antenna, o Gianni? Non so, tu sei liscio? Papà, liscio. Mette la portante, Anto? 2, 3, 4, 5, 6. Prova tu già. Testi 1, 2, 3. Guarda, ti dico solo che già nel profeta mi arriva, quanto mi arriva Marco Condor. Quindi tu sei 9 più 20 e lui 9 più 30. Ha un segnalone. Vabbè, l'antenna è messa diversamente, il palazzo... sicuramente più alto, c'è un altro tipo di posizione, è 9 più 30 con questo baracchino, è oltre più, è proprio sul 3, cioè tu sei sul più e lui è sul 3, tra il 3 e lo 0, capito? E questo è uno smith al serio, anche se è un baracchino, però è uno smith al serio, bello grande, va molto bene, vai Marco. Eia, Gianni, tu avevi lasciato il 4 watt o l'avevi messo a 8 quello dintorni? Com'era? Un pochino l'avevi migliorato, no? Però senza saturare, ti ricordi, se alzavi troppo tendeva a saturare. O era pomponio quello? Vai Gianni. Guarda, sì, avevamo fatto quella regolazione perché mettendo al massimo praticamente dava picchi negativi. No, sono tipo, vai, 7 e mezzo così, dai. È il giusto compromesso, perché quello mi pare sia monofinale, però quello dico, quello nego. Non me lo ricordo già se sia... Vabbè, c'è il pilota che non vale, non conta. E poi un finale, ti ricordi, anche nel 3009 c'è un solo finale. Invece certi hanno il pilota e due finali, e lì puoi alzare, lo puoi portare anche più alto. Va bene, però... perché non è mania con le potenze, va bene così. Riprendi Antonio. Niente, riprendi Gianfranco. Sì, ne approfitto perché mi hanno chiamato per lavoro. Ci sentiamo alle prossime, dai, buona serata a tutti. Vi prendete pure. Ah, ma te lo posso vedere io. Ma te lo posso vedere io. Hola, hola. E io Gianfra, dai, buona cena, buon tutto e ci sentiamo le prossime. Io non tarderò, che ora è? 9:15, vabbè. Non so se guardarmi col pasticcio di film oppure mettere qualcosa di mio. Vabbè, entro veloce anch'io per salutare Gianfranco, dai, alla prossima. Grazie, questo anche se è breve, comunque dai, ci sentiamo alle prossime. No, il film l'ho visto, Marco Lì, Pianista sull'oceano, merita, chiaramente non è la solita pellicola d'azione americana, comunque già merita, voglio dire. Avanti, Clark. Aspetta, sto recuperando questa capsula che mi si è ferrata dentro. K, saluto Gianfranco, se mi senti ancora, K, hola, vai e ce n'è, bello. Bello fratello. K, scommetto che ti arrivo un bel forte, lo profe. Guarda, non c'ho gli occhiali adesso. K. Ma lo Smith già si è chiudendo i voci, non ti preoccupare. Qua mi arrivi a fondo scala, dai. Sì, lì sarà incollato. Che prove sono? Antonio, siete attaccati. Grazie, come provare io e Roberto Quadrato. Roberto è sopra oltre il DB del 9+60. Già lo so, però adesso chi è che vince? Non ho capito, tanto chi è? Che vince adesso? Prova. 2-3, prova. Allora, attaccato è lo stesso segnale di Gianni, capito? 9+30. K, purtroppo c'ho qualche ostacolo, c'ho qualche ostacolo. No, ma è più bassa la tua, cazzo, c'ha una zona micidiale Gianni, ma stai scherzando. È molto più alto di te, più aperto verso di me, capito? Però già vai bene, Anto, e non dobbiamo arrivare in piccolo, già va bene. Tanto buco a 5 ottavi, adesso mi sono limitato a lasciare questa, ci lascio questa, però ho intenzione di prendere una bella antenna. Guarda, ti faccio un esempio, con tutto rispetto. Stasera c'era Claudio Lamuros, è entrato Pantara, ok, tu sai bene dove è Muros, Muros è molto più avanti rispetto a me. Allora, Pantara lui arrivava a Santiago 4, a me mi arrivava a Santiago 7, capito? Io a Pantara con questa potenza, con 10 watt, arrivo 9+5, capito? E lui arrivava a Santiago 7. Quindi immaginati tu, cioè non c'entra niente, dipende dalla posizione in cui sei, dalle aperture che hai. Io ho un'apertura a 360 gradi, non ho ostacoli, perché non ho niente davanti, da nessuna parte, siete tutti sotto, Sassari è sotto. E poi ho le aperture sia a nord, sia a est, sia a sud che a ovest, capito? Però lì basta un niente che è chiaro che il segnale è più basso. Vai Rubrofe, non ti preoccupare, tu ridi sempre a Futtidini, poi agli altri ci pensiamo dopo. Oh, yeah. Vabbè, Antonio mi ha detto più o meno a grandi linee più o meno dove stai, quindi sicuramente c'è ostacoli davanti, io sono più in una posizione più favorevole, dai, quindi sicuramente l'antenna lavora meglio, ma dai, non sono quegli spiccioli che fanno la differenza, dai, poi alla fine. Bene, tu. Aspetta che c'è Marco lì nel parcheggio, avanti Marco. No, fate che sto controllando il menu qua, sto familiarizzando con il menu che ancora non mi ricordo niente. Mamma mia, palle questa radio menu. Ah, vero Claudio, questa radio menu è baranoia, non è meglio manopole. Cazzo, lascia perdere, io tutte le volte che tocco qualcosa in quella radio a menù è un casino, non le voglio bere. Ero 3 giorni lo stesso battagliando perché pulendo ho toccato qualcosa, era accesa e non ricevevo niente. E avevo messo il mute, naviguaggio io a policolonia esterna, stavo volume, c'era scritto il mute e non si sentiva un cacchio. Dai, entro io. Claudio, ma stai usando il DAC? No, no, no, sto usando l'Inuit 259, 23 canali base con l'MB più 5. Ah, beh, da come l'avevi descritto prima, mi ero ingannato, la descrizione pensavo fosse il DAC. No, no, no, il DAC è spento. C'avevo questa che era un po' di tempo ferma e ho preso un altro microfono. Mi ha fatto le connessioni Luca Flipper e allora sto usando questa. C'è una bellissima ricezione, una bella trasmissione, così. Ogni tanto l'accendo, se no le mie radio le conosci quali sono, però siccome c'ho anche queste vintage ogni tanto le faccio girare, visto che escono bene le faccio girare, se non uscivano bene sarebbe pur certo che rimanevano spente. Eia, immagino, quello è poco ma sicuro. No vabbè, io sono sempre al solito. Non ho cambiato nulla, non sono messo a posto l'altro giorno la lampadina dello Smith che mi si era fulminata, come ho detto a Marco. Ero un po' restivo a smontarla, poi alla fine mi sono deciso e alla fine ci sono riuscito, dai. Cazzo, a parte che era feo vedere lo strumento al buio e non si vedeva nulla. Comunque ce l'ho fatta piano piano e niente, dai, quindi mi ho approfittato per dargli una bella spolverata, una bella pulita, funziona sempre alla grande. Radio hai? Quanto? È un Super Joe Pix 2000, è il clone praticamente, se non sbaglio correggetemi per i più esperti, è il clone del Super Galaxy praticamente. Super Star? Super Galaxy, praticamente è il superstar col display digitale della frequenza, te lo sa spiegare meglio Marcolino. Non mi ricordo, come radio ne ho avuto tante pure io. Boh, è cantudati c'è il radio. Guarda, a strumento sto uscendo con 7 watt. Ecco, poi una decina pure io. Già va bene. Bene, bene, Marco forse si è perso in mezzo al menù. Marco lì. Ma ha detto qualcosa, non so se dovevo andare, forse in bagno. Non va bene perché c'è questa modulazione. La timbrica, vabbè, è diversa, però come modulazione è bella, va bene, no? Kappa, no, ti ripeto, siccome mi hai detto come stavi usando il K, vabbè, ora che già si sente, pensavo che fosse il DAC, non mi ricordavo che avevi anche questa. Sì, ne ho altre quattro di quelle vintage, cioè anche l'Elbex, c'è sempre quello MB più 5. Ogni radio c'ha il suo microfono, capito? E quindi siccome sono tutte collegate, sono tutte tramite commutatore d'antenna, perciò ogni tanto ne accendo una, la faccio andare questa 220 come il DAC, e quindi mi piace anche per quello. No, ma dico, come a parte la timbrica che non è uguale chiaramente all'MC60, però come modulazione chiara va bene, no? Amplificata, bella. 10 più, va benissimo qua. Perfetto, è chiaro che la timbrica non può mai arrivare al 60, però mi hanno detto che va bene. Non è cupa, bella corposa, medio-alti, corretti, quindi ho detto vabbè. Usiamo anche questa ogni tanto, già va bene. E tu, bambolino, com'è la situazione? Bene, bene. Sto contento, sta andando tutto bene. Ma ti volevo chiedere una cosa, ma quella radio così a valvole o normale? Oh no, è transistorizzata, è uguale, c'è un Inuit 294 di vecchia data, tutto cromato avanti, c'è l'orologio meccanico, i 23 canali più 1 alfa, c'è l'altoparlante davanti, tutto cromato sempre, molto bella. C'è il Mickey Gain, c'è il tono per la ricezione, quindi se vuoi ascoltare con modalità alta, ascolti con modalità alta, se lo ascolti con bassa, squelce il volume normale e poi c'è il delta tune, che c'è il più e il meno, per tipo un filtro, insomma, l'NL, queste cose così, modulometro. No, una bella radio, c'è lo smitter sì, più grande del 440, in modo che io lo veda bene a tre scale e va bene. una radio consistente. Per fare due chiacchiere più che consistente. Cappa, e mi ricordo comunque che c'avevi qualcosa a valvole, mi ricordo. O mi sto sbagliando io, sono rincoglionito. Forse un po' di tempo fa, può essere. A valvole ne ho due, ti ho detto, c'ho il DAC e l'altro. E l'altro che è dentro l'armadio, il prescription, capito? A valvole ne ho due, c'ho il DAC, ma siccome deve andare a 110 quella, allora non mi va di stare lì a mettere l'armato trasformatore, eccetera. Ogni tanto la prendo, l'accendo, con due bruci poi la spengo. Sì, ne ho due a valvole, a tu. Due a valvole, gli altri sono base, però sono transistorizzati. Sempre 220 però, capito? 220 come tensione, però transistorizzati. Mentre il DAC e l'altro sono a 220 però sono a valvole. Ho già trovato di davvero contatore a valvola. E consumano un po' con le radio. Ah, già consuma, dove si voce, Gio? Che consuma un amplificatore, è sempre più largo, quello da 2 kW, quello sì che consuma, quello già scherreggia, quello si apre la fungibile da sola quando lo accendo, vai già. Via. Io volevo sistemare l'altra che mi si era abusata, quella piccolina, la prima con quella con cui io ho riesordito. Devo riuscire a capire cosa sei fasciato. E niente, adesso appena ho la testa un attimino più libera provo a vedere se riesco a combinare qualcosa. Tutto qua, per il resto poi lo strumento funziona alla grande, la lancetta si muove, misura come deve misurare, e fin qui tutto bene. E pure che su cosa attaccato l'aveva pure d'intindio un po' caretto, ma non a tutta birra, no, un po' caretto, almeno a metà, dai. Tanto se guardi lo smitter poi si inchiola, io te lo posso anche far sentire perché è sempre pronto, non ce ne sono problemi, però ti pongo solo la portante, capito? Ti metto solo la portante e boh, dammi un secondo e poi ti dico io, se sei pronto mantenete lo smitter. Io già tenuo ai nobili, non ti preoccupare. Tu non attenuare che non succede niente, già non parlo io. Tu guarda questo segnale, poi io ti metto la portante e guardi l'altro segnale, va bene? Pronto G? E vai, non deve scaldare. No, è lo stato solido, non è valvolare da giù di tuviscio, le valvole non fate una drizzata. Questo è un RM Italy da 1 kW, allo stato solido, trasistorizzato. Cazzo, e poi lo voglio vedere che antuvisci. Guarda questo segnale, adesso te lo accendo. La molta è mala. Andendi. Già va. Spegniamo tutto, già spento. Salito da te, lo profe. Vabbè, il mio smitter arriva a quel tot e si ferma. Ah, fermatosi. Eia. È come se ci sia un come si dice? Oltre quel tanto non si muove, dai. Comunque è sempre a fondo scala. Vabbè, ma adesso non è a fondo scala, provo a fare a fondo scala. Beh certo, claro che sì. Riprova Claudio. Cazzo, voglio tu. Allora, questo è il passaggio normale, però schiaccio solo la portante, sia che disturbo. Questo è poi il passaggio normale. Va. Ma come mai qua ti ho attenuato e non cambia nulla, Claudio? Ti ho attenuato a Santiago 3. Ma non cambia. Cazzo, c'hai l'attenuatore floscio? Cioè, così quanto sono attenuato? Santiago 3, pieno, diciamo, Santiago 3 è pieno. No, ma sempre che ho dovuto attenuare, perché sennò non vedo differenza a fondo scala, solo che attenuato non ne vedo lo stesso. Vabbè, dai, sarà che siamo troppo vicini, no? Non rende. siete tutti incollati qua, cioè vabbè, qua è a LED, siete tutti sul più 30, poco da fare c'è. Cioè così è sempre Santiago 3. Eia, ma sto pensando se dipende da qua, non... poi lo sai se smette la LED, ma dovrebbe comunque variare, cioè più segnale c'è più ne segna, non è che si scappa. Se vuoi ti faccio il video, mi Claudio, non... è una cosa strana, boh, vabbè, dove cazzo è il cellulare, scusate. E cosa tra i cosa? C'è un problema tuo, io guardo il vatt e metterò. Io guardo sempre il vatt e metterò, non è che guardo molto. Vabbè dai, lasciamo stare le cose come stanno, che allora arriva prove di questo genere. Intanto sto chiudendo perché c'è un bel film alla TV e vado a vedermelo e poi vado a prendere mia figlia al lavoro, dai. Io vi saluto, grazie alle due chiacchiere. Ciao Gianni Rubrofetta, ciao Antonio, ciao Marco e a chiunque sia in ascolto. Buonanotte a todos, a domani, ciao, è claro che sì, vai Dobrofè. Ehi, ok, saluto Nicola, dai, alle prossime in frequenza, dai, buona chiusura e niente, dai, avanti Condors. Dai, ciao Claudio, butta nel topo dalla trave, altro che no, butta nel topo dalla trave, come dicevi una volta. Dai, ci sentiamo le prossime. Anch'io levo le tende qua, dai. No, sai perché già? Mi ero scaricato anche un anime degli, come si dice, degli montaggi, che non avevo mai visto, tale Metropolis del 2001. È in stile Astro Boy come disegno, credo che sia lo stesso disegnatore. Non l'ho mai visto, mai, non sapevo nemmeno esistesse. Ero curioso di guardarlo, quindi o Pianista sull'Oceano o Metropolis. No, questo Metropolis mi riporta un altro film molto più vecchio. Non ho idea di, cioè non conosco questo film in animazione, quindi non ho mai visto, non so cosa hai detto. Mentre per Il Pianista vabbè, è un bel film chiaramente, come si dice, totalmente diverso, sì, sicuramente, anzi ovviamente dall'anime giapponese, dai. Niente, anche io, dai, faccio un paio di passaggi e vedo un attimino. Ieri mi sono rivisto Truman Show, cazzo, mi ha messo una tristezza. Adesso non so cosa fare anche io, dai. Vediamo Antonio quali sono i programmi. Antonio, e tu che programmi hai? Sì, fra poco mi ti gocco, perché sono stanco, tutta la tele della TV ce l'ho giù. No, non ne ho voglia di scendere giù a vedermi niente. Sto un pochettino stanchino. Goioia. Niente, quindi dai, poi ognuno si arrangia come meglio crede. Adesso vediamo un po' come butta la serata. C'è un po' di film messi da parte, vediamo un po' cosa mi ispira, dai. Avanti Marco. Sì, questo film, questa animazione, questo anime, come vogliamo chiamare, l'anime mi viene sempre qualcosa lì in mente. E riprende la trama di Metropolis, un po' anche lì c'è la classe ambiente che spadroneggia, poi c'è una classe operaia che in questo anime sono dei robot che praticamente subisce finché non si gira un po' lì yo-yo, capito? Boh, vediamo cosa c'è, magari mi guarderò quello. Dai Antu, Gianni, io vi saluto, te l'ho detto, stasera me ne ha mangiato il cervello mia zia, quindi poi per quanto ne avrò capito di roba commerciale non mi interessa quella roba lì. Ci sentiamo le prossime. Rinnovo i saluti a Claudio se è ancora all'ascolto e sentiamo, dai, ciao a tutti a quelli all'ascolto anche, ok? Vai Gianni. Ehi, dai, mi Mi accomodo Marco, dai. Colgo l'occasione per fare i saluti anche io e niente, dai. E vediamo di riuscire a concludere la serata, dai. Salutoni a entrambi, sia Marco che Antonio. No, e Claudio sicuramente avrà già spento. E a tutti gli ascoltoni sul 10. Ok. Ciao Antonio, ciao Marco e alla prossima. Ok, buonanotte e state a corte. Buonanotte a tutti, buonanotte a te Marco e buonanotte a te Gianni. Ci risentiamo alle prossimine. Ciao ciao, buonanotte, anch'io chiudo. Ciao ciao. Ciao a tutti, ciao, buonanotte. Ciao ciao.